It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Lunedì 6 dicembre, benvenuti di nuovo i nostri teleradioascoltatori su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda tutti i giorni, un'ora al giorno, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. E do il buongiorno anche ad Antonella. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. Hai un compito, siccome siamo partiti con il calendario dell'avvento per fare tutti i giorni un'iniziativa interessante per il carcere, un po' una campagna che abbiamo fatto per sensibilizzare la cittadinanza e apriamo tutti i giorni una casellina che ha qualcosa a che fare con il carcere o comunque con le festività. Sì, infatti oggi apriamo la casellina e leggiamo che il Natale religioso si festeggia in tre modi. La Chiesa Cristiana Cattolica lo celebra il 25 dicembre, questo lo sappiamo, e quella ortodossa il 7 gennaio e la Chiesa Armena lo celebra il 19 gennaio. Per i cristiani di Gerusalemme le messe vengono celebrate al Santo Sepolcro, luogo nel quale nacque Gesù. Grazie Antonella, chiudiamo la casellina e passiamo subito alle notizie in rassegna per oggi. Leggo da altreconomia.it, bambini in carcere, la proposta di legge per liberarli è ferma in Parlamento, a firma di Ilaria Sesana. Eh sì, perché la proposta di legge che prevede il finanziamento delle case famiglie protette si è bloccata a 8 mesi dall'avvio dell'iter per il finanziamento. E così è partito l'allarme dell'Associazione Cittadinanza Attiva. Siccome chiaramente anche i numeri sono significativi, pensate che al 31 ottobre 2021 nelle carceri italiane erano detenute 19 madri con al seguito 22 bambini. Caterina, di quale legge stiamo parlando nello specifico? Si tratta della legge 62 del 2011, la norma che 10 anni fa ha istituito gli ICAM, che sono gli istituti a custodia attenuata per detenute madri. È una legge fatta appositamente per impedire che i bambini varcassero le soglie del carcere. Ora si tratta di superare gli ostacoli per permettere l'avvio dei finanziamenti. E questo era uno anche degli obiettivi della proposta della legge 2298 presentata a dicembre 2019 alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Ma, come dicevo, a 8 mesi di distanza dall'avvio dell'iter, la proposta di legge si è però arenata. La denuncia è arrivata da Cittadinanza Attiva che, insieme a alcune associazioni di Roma, chiede di liberare i bambini costretti a trascorrere i primi anni di vita nelle sezioni nido delle carceri italiane. Questo chiaramente non è giusto e quindi bisogna assolutamente fare qualcosa. Caterina, scusami, ma si è capito come mai si è tutto bloccato? Teoricamente non dovrebbe essere nell'interesse di tutto mettere i minori e il diritto all'infanzia al centro di ogni cosa? Guarda, hai perfettamente ragione ed è anche quanto afferma Laura Liberto dell'Associazione Cittadinanza Attiva. Lei dice che inizialmente sembrava che ci fosse convergenza, almeno da parte delle forze politiche, nell'appoggiare il loro obiettivo. E questo faceva ben sperare nella rapida approvazione della Commissione Giustizia senza dover passare dal Parlamento. Poi purtroppo tutto si è fermato. Il motivo è che ci sono questioni più urgenti al momento nel calendario dei nostri politici. Per esempio tutta la questione dell'approvazione della legge di bilancio e, come sapete, l'elezione del Presidente della Repubblica. Il timore è che se passerà altro tempo diventerà ancora più difficile recuperare questa proposta di legge. Certo, rimane per tutti il monito che il carcere non è certamente il luogo più adatto per far partorire una donna e non è certo il luogo adatto per far crescere dei bambini. Tanto è vero che durante la sua visita alla sezione nido del carcere di Rebibbia, il deputato PD Paolo Siani ha incontrato diverse mamme con bambini a seguito e anche mamme incinta e chiaramente vanno trovate delle soluzioni. Senti, quali sono le soluzioni che secondo te vanno trovate? Allora, nella sua proposta il deputato PD Paolo Siani propone una revisione della legge 62-2011 in modo da dare al sistema giudiziario i mezzi normativi ed economici per evitare l'ingresso dei bambini in carcere, offrendo alternative concrete. Quindi prevede l'obbligo per lo Stato a finanziare le case famiglia protette per detenute madri, oltre all'obbligo per il Ministero della Giustizia di stipulare convenzioni con gli enti locali per individuare le strutture idonee ad accogliere mamme detenute con i loro bambini. Il testo della proposta di legge prevede anche alcune modifiche del codice di procedura penale finalizzate a rendere la custodia cautelare delle detenute madri all'interno degli ICAM solo nel caso in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In pratica, se la proposta venisse approvata, per una donna con figli piccoli non si dovrebbe mai aprire la porta del carcere e le case famiglie protette dovrebbero essere la soluzione ordinaria. E il ricorso invece agli ICAM, che in Italia sono soltanto 5 in questo momento, dovrebbe essere di estrema ratio. Ma rimaniamo con la musica, come sapete, tra un nostro intervento e quell'altro. Tutta la settimana vi propongo musica soul, la musica dell'anima, e oggi Do I Love You di Frank Wilson, e a tra pochissimo. E rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale, sempre su Liberi Dentro e Do Radio TV. Antonella, c'è un film di Paolo Sorrentino, l'ultimo, ce ne vuoi parlare? Sì, Caterina, il film si chiama È stata la mano di Dio, è un film che ho visto qualche giorno fa ed è l'ultimo di Paolo Sorrentino, che esce, se vuoi, un po' fuori dal suo genere. Immaginati un po' appunto La grande bellezza, i suoi film molto caratterizzati. Eppure però restando riconoscibile a mio parere, perché è surreale e reale nello stesso tempo, un po' come nel suo stile. Però prima di raccontarvi la trama vi dico che ci sono degli attori bravissimi che gli amanti del cinema e del teatro ben conoscono, soprattutto se sono napoletani, perché c'è Filippo Scotti che recita la parte di Sorrentino da ragazzo, Tony Servillo, il padre, Teresa Saponangelo, la madre, e Luisa Ranieri, che poi Luisa Ranieri per inciso è la moglie di Luca Zingaretti, il commissario Montalbano, per i più, nella parte della zia. E poi c'è il bravissimo e ormai piuttosto anziano Renato Carpentieri, che fa sempre la sua parte meravigliosamente, e infine Enzo De Caro, che si presenta, penso, un po' come San Gennaro. Di questo film se ne è parlato molto anche alla Biennale di Venezia nella sezione cinema, vero? Sì, infatti Paolo Sorrentino è stato vincitore del Gran Premio della Giuria e tra l'altro il premio Marcello Mastroianni per il miglior attore emergente è andato proprio al giovane bravissimo Filippo Scotti. Però voglio leggervi le parole di Sorrentino che racconta il suo film. Lui dice che è un racconto di formazione che mira stilisticamente a evitare le trappole dell'autobiografia convenzionale, vittimismo, pietà, compassione, indulgenza al dolore, attraverso una messa in scena semplice, scarna ed essenziale, e con musica e fotografie neutre e sobrie. La macchina da presa compie un passo indietro per far parlare la vita di quegli anni, come la ricordo io, come li ho vissuti e sentiti. In poche parole, questo è un film sulla sensibilità, e in bilico sopra ogni cosa, così vicino eppure così lontano. C'è Maradona, quell'idolo spettrale, alto 1,65 m, che sembrava sostenere la vita di tutti a Napoli, o almeno la mia. E beh, Caterina, mi sembra che la sua intenzione sia veramente ben riuscita. Fai una prova di, diciamo, astuzia e raccontaci la trama senza raccontarci tutto, ovviamente. Eh sì, è la storia di un ragazzo nella Napoli degli anni Ottanta, una famiglia benestante e unita e il diciassettenne che è Fabietto, si chiama Fabietto Schisa, un ragazzo goffo che lotta per trovare il suo posto nel mondo, un po' come tutti a quell'età in realtà, no? Che trova gioia in una famiglia straordinaria e amante della vita. Ma si sa che quando poi si cresce, si diventa grandi, bisogna anche cominciare a volare da soli e Fabietto sente molto questa urgenza. Poi alcuni eventi cambiano tutto. Uno è l'arrivo a Napoli di una leggenda dello sport simile a un dio, appunto l'idolo del calcio Diego Armando Maradona, che suscita in Fabietto e nell'intera città un orgoglio che un tempo sembrava impossibile. Caterina, apro e chiudo parentesi, io mi sono fatta due scudetti del Napoli, quindi nell'87 e nel 90, una festa collettiva straordinaria, una festa che ha messo tutti allo stesso livello nelle strade gomito a gomito in una città che sembrava un palcoscenico, cioè una cosa incantevole, irripetibile. Chiudo la parentesi. E dicevo, l'altro evento per Sorrentino è un drammatico incidente che farà toccare a Fabietto il fondo, indicandogli la strada per il suo futuro. Apparentemente salvato da Maradona, appunto, o toccato dal caso, dalla mano di Dio, Fabietto lotta con la natura del destino che improvvisamente lo consegna alla solitudine, alla confusione proprio della perdita, ma prova anche l'inebriante libertà di essere vivo. E quindi possiamo dire che questo film è sicuramente il più commovente e il più personale di Sorrentino. E diciamo che ci accompagna in questo viaggio ricco di contrasti fra tragedia, commedia, amore, desiderio, bellezza, assurdità, il grottesco, l'esuberante, mentre Fabietto trova l'unica via d'uscita dalla catastrofe totale proprio attraverso la sua immaginazione. E proprio per rimanere, diciamo, in contatto con questo film molto bello, vi faccio sentire Pino Daniele, Napulè, proprio perché è presente anche nel film. Prima di ascoltare poi l'intervista alla regista Enza Negroni, alla regista del film, appunto, La prima meta. Napolè mille colore, Napolè mille paure, Napolè voce da creatura, assaglia piano piano, e tu sai Ciao a tutti, io sono Fabio. E io Lorenzo. Oggi intervistiamo Enza Negroni, la regista del film La prima meta, che racconta la storia del giallo Dozza. la squadra di rugby del carcere di Bologna. Anche questa intervista è stata realizzata in collaborazione con l'agenzia di comunicazione Technotrade. Vai con la pillola. Bene, allora partiamo con l'intervista. Io la prima domanda che ti volevo fare, Enza, è questa: diciamo, che genere di spinta creativa o culturale o tua personale ti ha portato a voler fare un film come questo? Ma io da sempre come regista mi occupo di storie che per la maggior parte si creano e si attuano nell'Emilia Romagna. E quindi questo lavoro rientrava comunque nel mio percorso personale. Avevo fatto un film sempre dentro il giallo d'Ozza, Shalom, dedicato ai coristi, al coro papageno che c'è all'interno del carcere della Dozza. Quindi avevo fatto questa esperienza. E poi qualche anno prima, la prima meta, cioè mi sono proprio dedicata, diciamo, al mondo del rugby e della Dozza. In questo caso Giovanna Canè, la coproduttrice del film La Prima Meta, diciamo che mi ha introdotto un po' nell'ambiente rugbistico. E poi è venuta questa idea, questa possibilità di realizzare un film con la squadra giallo d'Ozza. Ma è stato anche quindi il legame per la tua città, per la tua città di origine, in qualche modo a spronarti a realizzare questo film? Sì, io racconto sempre delle storie legate al territorio. Quindi da Jack Frusciante, uscito dal gruppo, che è stato una fiction, fino ad altri lavori, Laura Bassi, un lavoro al Pilastro di Bologna. Ho tanti lavori che raccontano questo territorio e mi piace lavorare con storie che sono vicino a me, che posso in qualche modo avvicinarmi coi miei tempi, che sono, è stato un lavoro di più di un anno con il giallo d'Ozza e sicuramente la Dozza è un luogo della città di Bologna, quindi è un luogo che però non conoscevo e andava raccontato, ecco, e raccontarlo attraverso dei progetti educativi che si svolgono all'interno era una possibilità straordinaria, perché si entrava in contatto con una realtà che non tutti conoscono, quindi mi piaceva raccontare in questo caso una storia di sport e anche di recupero e dall'altra parte anche con Shalom, il coro papageno è comunque un progetto culturale, musicale, anche quello che porta comunque a vivere una realtà che non si conosce. Io ti volevo fare una domanda, Enza. Ci spieghi il significato del titolo? Cosa volevi trasmettere? Cioè, perché La prima meta l'hai titolato il film? La prima meta è che siamo entrati, diciamo, con insieme a fare le riprese. Io avevo chiesto questo, di poter entrare a fare le riprese insieme ad alcuni ragazzi che iniziavano a fare rugby per la prima volta, come la maggior parte. Però non volevo iniziare già con alcuni che avevano in qualche modo già avuto nella squadra dei ruoli, ma volevo proprio seguirli dall'inizio, cioè dal test, no? Ci sono questi test che fanno per farli entrare nella squadra del Giallo d'Ozza, che sono dei test sia psicologici ma soprattutto fisici. E quindi io sono entrata con loro e questo mi ha dato la possibilità di seguire la prima meta di uno dei protagonisti, uno dei ragazzi protagonisti. Nel particolare, com'è stato girare questo film dal punto di vista tecnico? Se hai riscontrato delle difficoltà, delle criticità, se ci sono state? Allora, nel film La prima meta noi l'abbiamo girato in tre, quindi una troupe molto ridotta. Io, la produttrice Giovanna Canè e il direttore della fotografia Roberto Cimatti. Quindi una mini troupe che però ha avuto la possibilità di interagire, proprio perché anche in pochi, con la squadra, acquisire anche fiducia che in qualche modo si è data in quel periodo. E partecipavamo al terzo tempo, abbiamo seguito tantissime partite, molto più di quelle che voi avete visto, okay. Perché ci piaceva l'idea che si doveva comunque stare il più possibile con la squadra, sia durante gli allenamenti e sia durante il giorno della partita. Quindi noi entravamo mediamente due volte a settimana per tutto un inverno, più l'arrivo anche della primavera, quindi fino a fine stagione. Abbiamo seguito quasi tutto, escluso la prima parte, e tutto un campionato. E questo ci ha dato la possibilità di entrare sia in empatia con il progetto, ma anche con i ragazzi, con la squadra. E questa è stata, diciamo, la parte più emozionante, ecco, quella che magari non si riesce a raccontare perché rimane come memoria personale, di un percorso personale. Anche per oggi il nostro intervento termina qui. Vi ricordiamo di continuare a seguire i nostri approfondimenti su Liberi Dentro Eduradio. da chi vive per chi vive il mondo del carcere. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi a Libri Dentro Edu Radio per qualsiasi richiesta o domanda sui nostri canali social, Instagram e Facebook. Ciao! Ciao! E rieccovi, siamo giunti ai saluti di fine puntata. Vi ricordiamo di iscriverci, redazione liberidentro@gmail.com, e vi ricordiamo anche le nostre rubriche a seguire. Abbiamo Scienza in una stanza a cura di Federico Tibone dal titolo Magia della pressione atmosferica, e poi a seguire Sogni dietro le sbarre, il documentario di Paolo Aleotti girato all'interno del carcere Bollate di Milano. Un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese e ovviamente dal nostro Enea Flacco al montaggio delle nostre puntate e da Diana Bota. Grazie e a domani. It's beginning to look a lot like... Liberi Dentro Edu Radio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Every star.